Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, due i fronti oggi, il fronte della manovra finanziaria da un lato con novità, modifiche, non tanto sul lodo Mondadori cosiddetto, ma anche sul blocco all'adeguamento delle pensioni, dovrebbe riguardare solo le pensioni dai 2.380 euro al mese in su, ossia il limite al 45% alla rivalutazione, il blocco completo dovrebbe scattare solo oltre i 4.760 euro mensili. Prima c'erano diverse fasce, ossia da 1.430 a 2.380 euro, e poi che adesso invece verrebbero portate solo da 2.380 euro in su, quanto a il limite della rivalutazione delle pensioni al 45%. E poi il lodo CIR, anche qui non si capisce bene cosa stia capitando. Confermate invece quelli che alcuni chiamano una patrimoniale mascherata, ossia l'imposta di bollo quadruplicata per chi ha depositi o titoli fino a 50.000 euro, 160 euro, da 50.000 euro, 380 euro. Confermato anche che dal 1 gennaio 2012 gli incentivi, allora il decreto sulle rinnovabili è stato eliminato, per cui tutta la polemica che c'era stata sul blocco del 30% degli incentivi da quello che si capisce non c'è più, e scusate se non possiamo essere più precisi. E poi di nuovo varie dichiarazioni che adesso ascolteremo sia del Presidente del Consiglio che del Ministro Tremonti. L'altro fronte riguarda oggi invece il fronte estero. Perché? Perché la Banca Centrale Europea, come molti di voi già sanno, ha aumentato i tassi di interesse, li ha portati dall'1,25 all'1,50%, la ricaduta per le famiglie con un mutuo a 10 anni di 100.000 euro a tasso variabile, vuol dire 132 euro in più all'anno, perché passa dal 2,75 al 3%, e il costo della rata aumenta di 11 euro al mese. Stiamo parlando di 100.000 euro di mutuo a tasso decennale, un mutuo decennale a tasso variabile. È diverso il caso invece i mutui da 200.000 euro, che è ben 264 euro in più, e via così. Ancora, per quello che riguarda il fronte internazionale, torneremo a parlare delle agenzie di rating dopo quello che è successo sul Portogallo, dopo la presa di posizione anche di Bruxelles. Oggi sulle agenzie di rating nel mirino per la loro attività, che secondo molti rischia di, anzi agevola la speculazione finanziaria, l'attacco ai debiti sovrani, senza che loro ne siano mai responsabili, senza che in qualche modo paghino per eventuali valutazioni sbagliate effettuate, come nel caso di Lehman Brothers, di Parvalat, di tutto quello che sono stati i giudizi delle agenzie di rating su titoli che poi sono crollati miseramente durante la crisi. 349-238-6666 per i vostri sms. Andiamo con ordine perché oggi la giornata è abbastanza articolata. Prima di tutto la borsa e le notizie in breve. Meno 0,2% Milano, che ha girato in negativo, viaggiava come le altre borse europee in rialzo dell'1%. Si stanno riducendo i guadagni sulle banche. Perché? Perché intanto vi do anche le altre borse: Parigi più 0,60, Francoforte più 0,60, Londra più 0,90 e l'America in questo momento più 0,70%. L'euro a quota 1,43,66. Dicevo, andavano bene le banche, si sono ridotti i guadagni, anzi nel caso di Unicredit e di Intesa San Paolo cercheremo di capire cosa è successo nell'ultima ora, perché hanno girato completamente negativo, guadagnavano intorno all'1,5-2%, adesso perdono 2% Intesa il 3,60 Unicredito. Fondiaria era negativa fin dalla giornata e così resta, il peggior titolo, meno 5,20%. È l'unica borsa negativa a Milano in questo momento, tra quelle più importanti, anzi direi in generale. Segnalo che la girata ha riguardato anche altri titoli, Mediobanca meno 1,40, Banco Popolare meno 1%, guadagnavano bene, guadagnavano il 3% e Banco Popolare e Mediobanca l'1,5%, resta positiva Tenaris più 3,50, Enel Green Power più 2,60, Parmalat più 2, Saipem più 1,70, Pirelli pure, Popolare di Milano più 1,60, Impregilo più 1,5 come Luxottica, l'1,30 lo guadagna Enel, l'1,1 ST Microelectronics e l'Automatica, l'1% Exor e Todds, lo 0,80 Prismian. Fiat continua a perdere sull'auto, meno 1,80%, Telecom Italia meno 1,60, A2A meno 1,5% e Ansaldo STS meno 0,80%. L'oro è in rialzo a $1,532 l'oncia, il petrolio a $98,95, però nel frattempo continua a aumentare la benzina. Non posso tornare a parlarne perché tanto sapete che è una fatica di Sisifo, non ha senso. I petrolieri dicono che la benzina aumenta sulla base dell'aumento del prezzo del petrolio, a noi non risulta valore del petrolio espresso in euro adesso rispetto al 2008, ma insomma, chi si ricorda l'intervista di 3 giorni fa con De Vita, col presidente dei petrolieri, insomma, sa quanto donchisciottesca sia il tentativo. La benzina va a 1,652 euro al litro al sud. A muovere i prezzi è stata oggi IP 0,7 centesimi, e ripeto, al sud abbiamo le punte massime. Il prezzo medio praticato nella verde risulta 1,591 euro nella modalità servito. E poi quando parleremo dell'agenzia di rating alle 18:15 parleremo anche di una notizia non bella per l'Italia. Oggi c'è stato un nuovo record nella differenza tra quanto rende un'obbligazione italiana e quanto rende un'obbligazione tedesca, che viene usata sempre come riferimento virtuoso. Più uno Stato deve offrire per trovare qualcuno che compri il suo debito, queste sono le obbligazioni, più è a rischio quello Stato. Ora, il livello italiano è ancora molto distante da quello dei paesi a rischio e anche della Spagna, che viaggia a 260-270 punti. Però c'è un nuovo record, 224 punti di differenza, poi è un po' rientrato, preoccupa sostanzialmente il fatto che l'ampliamento del differenziale è dovuto all'aumento dei nostri rendimenti, non a una diminuzione di quelli tedeschi, per dirla tutta, e quindi ha un impatto poi sui nostri conti pubblici. Attenzione, perché più dobbiamo offrire, pensate che alla fin fine per ogni punto percentuale in più che dobbiamo offrire un'obbligazione per trovare finanziatori per il nostro debito, a noi costa sostanzialmente 60-70 miliardi di euro ogni anno. Un punto percentuale, un quarto di punto ci costa intorno ai 15-20 miliardi. E quindi quasi una manovra finanziaria. Ancora per quello che riguarda i temi di questa giornata economico-finanziaria, il ministro Romani ha detto che l'aumento dello spread Bund non desta allarme. Avete un messaggio? Si conferma, noi paghiamo 60-70 miliardi di euro all'anno di interessi sul debito, per cui un punto percentuale in più nel rendimento è una manovra finanziaria, cioè stiamo praticamente sui 15-17 miliardi, dipende quanto è il debito. Ogni punto percentuale se ne va una manovra finanziaria sul debito. Detto questo, perché i 60-70 miliardi è tutto l'interesse che noi paghiamo sul debito in un anno, a diciamo interessi di adesso. Se aumentano i tassi di interesse, paghiamo di più complessivamente, nell'ordine di 15-17 miliardi per ogni punto percentuale. Andiamo avanti invece, arriva un plauso alle misure italiane da Jean-Claude Trichet, presidente uscente della Banca Centrale Europea, una misura buona e giusta. E per quanto riguarda invece il nuovo presidente, il nuovo governatore della Banca d'Italia, il presidente del Consiglio Berlusconi ha detto non c'è fretta, possiamo aspettare fino a novembre. Allora, adesso arriviamo alla manovra e poi arriviamo ai tassi di interesse, all'assemblea di Confesercenti in cui è stato fischiato il ministro Romani durante l'assemblea. Però vorrei continuare a raccontare da finanziare nelle cose ancora molto incerte. Ripeto, confermato l'aumento del bollo sul deposito titoli, confermato da quello che vediamo l'eliminazione della manovra, della misura che andava a ridurre gli incentivi sulle rinnovabili. Il giallo resta su altre voci, perché a questo punto anche noi capiamo molto poco, e mi riferisco alle pensioni e al lodo CIR. Partiamo dal lodo. Dunque, questa mattina all'una più o meno il Presidente del Consiglio Berlusconi dice: Tremonti considerava quella manovra, quella norma sacrosanta e non ha ritenuto di portarla al voto del Consiglio dei Ministri pensando che fossero tutti d'accordo. Io ne avevo avuto conferma perché ad esempio Calderoli, che non la conosceva, mi ha detto perbacco se lo sapevo la potevo scrivere meglio. Avrebbe dovuto dire se l'avessi saputo l'avrei potuta scrivere meglio, ma lasciamo stare, questi sono dettagli, non c'è nessun giallo. Appena ho visto le polemiche ho scritto una dichiarazione e ho ritenuto di farla togliere. Così Berlusconi all'una. La cosa è stata discussa durante il Consiglio dei Ministri, il ministro Tremonti non ha ritenuto di portarla ad un voto del Consiglio dei Ministri perché era sicura che, essendo una norma sacrosanta su cui nel tempo si era intervenuti, tutti i componenti della coalizione fossero d'accordo, e io ne ho avuto assoluta e precisa conferma anche dallo stesso ministro Calderoli, che non era stato portato a conoscenza di questa norma, ma che anzi mi ha detto: ma perbacco, perché non ne abbiamo parlato, che io l'avrei scritta meglio e ti avrei aiutato a sostenerla. Io non mi sono aiutato a sostenerla perché mi sono astenuto da tutto, ma ripeto, non c'è nessun giallo, questa è la situazione. Appena ho visto che questa cosa creava un caso, immediatamente mi sono messo a scrivere una dichiarazione e ho ritenuto di farla togliere, comunicandola al Presidente della Repubblica di farla togliere dal decreto. Ripeto, io e la Fininvest non abbiamo bisogno di nessuna norma per salvarci. In realtà, appunto, Calderoli ha smentito di essere a conoscenza, ma il giallo poi si infittisce perché poco dopo il Presidente del Consiglio Berlusconi aggiunge: potremmo, dopo la sentenza sul lodo CIR Mondadori, potremmo ripresentare la norma. Ma non basta, perché alle 2:30 il vice capogruppo del PDL al Senato Quagliarello dice: presenteremo un disegno di legge a firma mia e di Gasparri che affronterà la norma dei risarcimenti civili, lo ripresenteremo in Senato adesso. E Bossi poi però un'ora fa dice: non ne so niente. Così appunto risponde Bossi a chi gli chiede il proposito di Berlusconi e di Quagliarello di ripresentare il lodo Mondadori. E poi quando è stato chiesto a Bossi: ma allora è vero che Tremonti lo sapeva, Calderoli lo sapeva? La risposta di Bossi è: non lo sapeva nessuno, nemmeno Tremonti. Giallo. O sapevano, non lo sapevano, boh. Quello che è certo è che Tremonti, mentre Berlusconi parlava, alle 13:53 fa una dichiarazione che molti hanno voluto leggere come anche un riferimento indiretto alla vicenda. Io credo che più sei serio e dai l'idea che non fai bene a te, ma che lo fai per il bene comune, alla fine è l'idea che vince. Se uno fa il furbo, se uno rinvia, se uno fa polemiche, se uno dice ma non scrive, o scrive quello che non funziona, non credo che sia il modo migliore per servire il tuo paese. E poi continua in botta risposta Berlusconi Tremonti, perché Berlusconi poco dopo, verso le 3, dice: quanto mi viene attribuito da alcune agenzie di stampa in merito all'operato del ministro Tremonti, cioè giudizi molto critici e negativi, non corrisponde al mio pensiero né alla verità dei fatti. Tremonti nel frattempo ha continuato a rivendicare all'assemblea della Coldiretti la validità della sua politica di bilancio. Il pareggio di bilancio è un obiettivo etico, non possiamo girare il debito ai nostri figli. Quello del pareggio di bilancio non è un obiettivo ragionieristico, è un obiettivo etico prima ancora che politico. Mi è stato detto: con questo tipo di politica non hai un grande successo politico. Io credo che tutti debbano capire che il problema non è se uno ha o non ha successo politico, il problema è la continuazione civile di questo paese. Ultimo giallo di questa giornata, il video pubblicato anche da Repubblica.it, un fuori onda in cui il ministro Tremonti è uscito combattuto e molto anche, insomma, critiche sul ministro Brunetta. Durante l'intervento di Brunetta, Tremonti, rivolgendosi al ragioniere generale dello Stato Mario Canzio, dice: questo è il tipico intervento suicida, proprio un cretino. Anche perché una manovra complessiva di 34 miliardi e 9 accumulati con la spesa del pubblico impiego 0,6, è inutile che ne parli, no? Ma deve parlare, insomma, tutti i siti la riprendono, la cosa si chiude si chiude poco dopo, nel senso che Brunetta dice: è venuto Giulio, mi ha abbracciato chiedendomi scusa, io però non ho ancora capito cosa sia successo, mi sa che non sono veloce di comprendonio. E veniamo ai commercianti riuniti alla Confesercenti, che hanno fischiato pesantemente il ministro Romani in due occasioni. Romani stava parlando alla loro assemblea e ha detto: le vendite al dettaglio sono in aumento del 2,5% ad aprile, fischi forti. Poi è tornato e ha ribadito: una manovra difficile che impone sacrifici, di nuovo fischi. Romani ha detto: beh, se volete me ne vado, sono 20 anni che faccio politica, non mi spaventa, sono disponibile anche al contrasto. Allora è intervenuto il presidente della Confesercenti Venturi, che ha detto: rispettate il ministro. Mugugni poi sul tentativo di salvataggio della Tirrenia, su cui si è ancora in alto mare, e mai termine fu più appropriato. E sentiamo invece la critica della Confesercenti alla manovra: rischio salasso da 5-6 miliardi per le addizionali locali all'IRPEF, temono i commercianti. E poi c'è un fisco lunare, la pressione effettiva è del 53%, costa in soli adempimenti oltre 18 miliardi. Lo ha intervistato il collega del Sole 24 Ore, Gerardo Pelosi. Noi qua avremo certezze quando vedremo la manovra in tutti i suoi elementi, per capire se si intende agire su un fattore che può deprimere fortemente i consumi. Per questo noi ci siamo opposti con determinazione, diciamo, a questa ipotesi. La pressione fiscale in Italia è ancora a livelli anomali rispetto al resto d'Europa? Ma direi più che anomali, siamo al 53% di pressione fiscale effettiva considerando il sommerso, quindi nessuna impresa e nessun cittadino si può permettere di sostenere, diciamo, un fisco che noi abbiamo definito lunare di questa natura, perché oltre alla pressione fiscale, per esempio, noi ci troviamo di fronte a 62.500 norme tributarie, quindi enormemente più di altri paesi, e i costi anche degli adempimenti sono enormemente superiori a quelli di Francia, di Germania, di altri paesi europei. Cos'è che manca nella manovra approvata ieri, Presidente Venturi? Ma innanzitutto questi interventi necessari sul piano fiscale, invochiamo da anni la riduzione del prelievo proprio per consentire alle imprese di investire, di creare ricchezza per il paese e nuova occupazione, ma soprattutto chiediamo anche di tagliare la spesa e gli sprechi, questo è un nostro vecchio pallino che potrebbe dare risorse proprio per abbattere la pressione fiscale. Poi chiediamo legalità e quindi attenzione agli appalti rispetto, quindi, alle imprese legate alla criminalità organizzata, di puntare in maniera determinante, forte, sulle energie alternative, perché anche questo è un modo di rendere autonoma l'Italia da tutto il resto, e affrontare il nodo del turismo. Il turismo può essere una grande leva a favore della crescita dell'Italia e dell'occupazione. E questo per quello che riguarda diciamo le richieste della Confesercenti. Allora, ripeto, molti di voi vogliono capire di più sulle pensioni, sulla rivalutazione, diversamente da quanto ipotizzato all'inizio, il limite del 45% alla rivalutazione dovrebbe riguardare solo le pensioni da 2.380 euro al mese in su e il blocco completo solo per all'adeguamento solo per le pensioni da 4.760 euro in su. Prima c'era l'ipotesi dei tre scaglioni, per il resto è tutto confermato, appunto, tranne il lodo, e è confermato, lo ripeto per la terza volta, l'imposta di bollo sul deposito titoli e l'eliminazione della riduzione degli incentivi sulle rinnovabili. Alcuni di voi scrivono: ma non è molto chiaro. E non è molto chiaro perché non è molto chiaro il decreto. Se continua a cambiare non so cosa fare. Comunque, meteo, pubblicità, poi respiriamo un attimo rispetto così alle vicende italiane. Andiamo a Francoforte, dove la Banca Centrale Europea ci ha regalato un aumento di un quarto di punto percentuale, e poi andiamo a commentare la borsa, meno 0,20% oggi il FTSE MIB. ...17.36 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisone. Adesso parliamo della Banca Centrale Europea e poi delle borse. Una nota ad alcuni ascoltatori che hanno scritto al 349-238-6666. Attenzione, il giallo sulla, o meglio le modifiche intercorse sulla rivalutazione delle pensioni, così come il fatto che il lodo, chiamato lodo CIR, che è una legge che riguarda da vicinissimo quella che è la parte economica del paese, non sono elementi solo di nota politica, sono elementi di nota economica. Se poi c'è un battibecco tra due ministri che hanno funzioni economiche, come il ministro della funzione pubblica Brunetta e il ministro Tremonti, lo ricordiamo, l'abbiamo sempre fatto con qualunque governo, non c'è nessun tipo di pettegolezzo, di gossip politico, per favore, questo non facciamo. E comunque torniamo rapidamente alla serietà della Banca Centrale Europea, che però è una serietà grave, nel senso che peserà, nel senso di gravità, sui tassi di interesse dei vari paesi, perché oggi il tasso di riferimento ufficiale, quello della Banca Centrale Europea, è passato dall'1,25% all'1,50%, secondo aumento dei tassi per il 2011. Il rialzo dei tassi, ha detto Jean-Claude Trichet, è arrivato, è stato effettuato per i rischi che si registrano in Europa, nell'area euro, sulla stabilità dei prezzi, ossia leggi inflazione, e la Banca Centrale Europea monitorerà molto da vicino gli sviluppi inflazionistici. Based on its regular economic and monetary analysis, sulla base delle analisi economiche e monetarie, il Consiglio direttivo ha deciso di aumentare i tassi di interesse di 25 punti base dopo il rialzo, sempre di 25 punti, deciso ad aprile, dopo la lunga fase ai minimi storici. Questo ulteriore aggiustamento del livello, ancora accomodante, è giustificato dai rischi al rialzo sulla stabilità dei prezzi. È essenziale che il recente aumento sul fronte dei prezzi non sfoci in una crescita delle pressioni inflattive nel medio termine. La nostra decisione contribuirà ad assicurare che le attese circa l'inflazione rimangano ancorate e in linea con il nostro obiettivo di mantenerla al di sotto o vicina al 2% nel medio termine. Come atteso, i dati economici più recenti indicano una decelerazione del ritmo della crescita economica nel secondo trimestre dell'anno. Rimane comunque positivo lo slancio della ripresa economica nell'area euro, su cui tuttavia l'incertezza resta elevata. Continueremo a monitorare molto da vicino tutti gli sviluppi riguardo i rischi al rialzo per la stabilità dei prezzi. All developments with respect to upside risks to price stability. Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, buonasera. Buonasera. Allora Beda, poi ascoltiamo anche un altro passaggio di Trichet, ma riguarda soprattutto il Portogallo. Io, qui restiamo sui tassi. Inflazione, da dove arriva questa inflazione secondo la Banca Centrale Europea? Ma l'inflazione arriva fondamentalmente dal prezzo delle materie prime, prima di tutto, da una ripresa economica a livello globale trainata tendenzialmente dai paesi emergenti, e poi viene dal fatto che durante la crisi finanziaria, all'apice della crisi finanziaria, i governi e le banche centrali sono state costrette ad aumentare la liquidità per evitare il rischio di deflazione. In un contesto di ripresa economica di questo tipo, i banchieri centrali temono che l'abbondante liquidità che è rimasta nell'economia, che è rimasta sui mercati finanziari, possa per certi versi trasformarsi in inflazione. E quindi la banca vuole agire d'anticipo e ha già aumentato il costo del denaro due volte e non ha chiuso la porta a un eventuale ulteriore aumento nei prossimi mesi. Questa è stata l'ultima mossa di Jean-Claude Trichet, perché poi arriva Mario Draghi. Però, insomma, come noi sappiamo, la Banca Centrale Europea vuole muoversi in continuità. Qual è, diciamo, la strada, l'alveo che lascia Trichet a Draghi? Ma io direi che Trichet ha voluto in questi anni rispettare il mandato della banca, senz'altro, che è quello della stabilità dei prezzi, e però al tempo stesso dimostrare un certo pragmatismo. Pragmatismo quando ha comunque deciso di portare i tassi di interesse a livelli molto bassi, pragmatismo quando ha deciso in alcune circostanze di non ritoccare il costo del denaro quando l'inflazione era comunque superiore ai parametri stabiliti dal Consiglio direttivo, e poi naturalmente il pragmatismo quando la banca ha deciso nel maggio dell'anno scorso di acquistare obbligazioni sui mercati finanziari per evitare un congelamento delle contrattazioni, in particolare sul mercato obbligazionario della zona euro. Quindi è una banca, quella che Trichet lascia a Mario Draghi, che ha voluto in questi anni, come dicevo prima, rispettare il suo mandato, ma agire abbastanza pragmaticamente su vari fronti. Ecco, a chi ci chiede come riascoltare alcuni degli audio di Trichet, alcune delle cose che diciamo durante il programma ogni giorno, ricordo il sito di Radio 24, ma anche la pagina su Facebook del programma, in cui c'è il link al sito, i vari commenti e anche l'anticipazione dei temi del programma, per chi fosse interessato a conoscerli prima. Chiusa questa nota di servizio, vorrei passare al secondo fronte, da che è il fronte agenzie di rating, quelle che danno i voti ai debiti dei governi e anche dei privati. Lo affronteremo per esteso dopo, però c'è stata una presa di posizione che vorrei che tu mi aiutassi a chiarire proprio il voto del Portogallo. Cioè, se ho ben capito, la Banca Centrale Europea continuerà ad accettare i titoli portoghesi come garanzia anche se non hanno i requisiti minimi previsti dai suoi standard in termini di voto delle agenzie di rating, cioè anche se le agenzie di rating hanno dato o daranno un voto più basso. Sentiamo Trichet su questo punto e poi la tua spiegazione. Oggi il Consiglio direttivo ha deciso di sospendere a favore del Portogallo i criteri minimi di accettazione sui suoi titoli di Stato come collaterali a garanzia dei rifinanziamenti alle banche. Questa sospensione sarà mantenuta fino a nuovo ordine. Abbiamo preso questa decisione considerando il fatto che il governo portoghese ha approvato misure di risanamento che vanno oltre quelle che aveva concordato con le autorità europee e l'FMI, ad esempio le privatizzazioni. Misure che sono state approvate dall'80% dei suoi parlamentari. Poi ci sono misure che non erano neppure previste in questo piano concordato, ad esempio la tassa sulle tredicesime. Infine, nel caso della Grecia, la nostra posizione è chiara: diciamo no a un default selettivo. Allora, Beda Romano, è un messaggio al di là dell'effetto pratico, è un messaggio che dice: guardate che al di là di quello che diranno le agenzie di rating, noi il Portogallo non lo abbandoniamo, ed è un messaggio rivolto anche alle stesse agenzie? Direi di sì, è un messaggio doppio, direi. Prima di tutto il messaggio è noi continueremo a dare liquidità alle banche portoghesi, se queste dovessero venire a chiedere liquidità alla banca centrale presentando del collaterale di titoli pubblici portoghesi, perché siamo convinti che il piano di risanamento approvato dal Parlamento portoghese regga, e siamo convinti che il Paese sia sulla strada giusta, e il nostro impegno rimane immutato, indipendentemente dal rating delle agenzie. Il secondo messaggio invece è un messaggio più politico e più rivolto alle agenzie. Non bisogna dimenticare che questo messaggio è giunto dopo che negli scorsi giorni alcune agenzie hanno ridotto il rating del Portogallo. Quindi annunciare oggi, in questo momento, questa decisione, questa presa di posizione, significa dire alle agenzie di rating: guardate, il vostro lavoro, le vostre analisi, la vostra comunicazione non ci influenza, noi continueremo per la nostra strada. E io credo che intravedo anche una critica nei confronti delle agenzie di rating. Credo che i banchieri centrali e in generale, direi, l'establishment politico e monetario della zona euro è abbastanza arrabbiato e seccato con le agenzie di rating, che continuano praticamente tutti i giorni a lanciare segnali piuttosto negativi nei confronti dei vari paesi in crisi debitoria. È importante quello che tu stai sottolineando, cioè anche la Banca Centrale Europea sta mandando un messaggio nei suoi modi e attraverso i suoi canali molto molto forte, a mio avviso, alle agenzie. Attenzione, e soprattutto a chi pensa di poter speculare sulle decisioni delle agenzie, aggiungo. E cioè, guardate che noi utilizzeremo i titoli portoghesi anche se gli è abbassato il voto. Non ho ricordi, correggimi Beda, di una decisione analoga nel passato. Assolutamente, no, è una decisione molto importante, sia da un punto di vista pratico che da un punto di vista politico, e credo che sia per certi versi il corollario della partita di braccio di ferro che si sta svolgendo con le agenzie di rating da almeno 3 anni a questa parte. Sì, con un'accelerazione nell'ultimo anno e mezzo, diciamo. Sì, direi, perché non dobbiamo dimenticarci che la Banca Centrale, e non soltanto la Banca Centrale, il Fondo Monetario e molti governi europei hanno accusato le agenzie di rating di essere in parte responsabili della crisi finanziaria, dello sconquasso finanziario del 2008-2007, perché i governi e la Banca Centrale aveva rimproverato le agenzie di non aver visto arrivare la crisi. Oggi le agenzie di rating, se stanno reagendo in questo modo, forse modo un po' scomposto, e anche perché vogliono, come dire, reagiscono al ritardo che avevano avuto in passato e tendono probabilmente ad anticipare le proprie decisioni per non essere accusate di essere in ritardo. Sì, comunque insomma la posizione della Banca Centrale Europea è molto chiara e dice: attenzione, che su questo, se sperate e a chi spera di speculare sul Portogallo, noi continueremo a utilizzare, cioè facciamo quello che possiamo fare, e quindi utilizzare come garanzia titoli emessi dallo Stato portoghese e anche dalle banche portoghesi a garanzia di liquidità, anche se voi a queste banche portoghesi date un voto basso. E infatti questa mattina Moody's ha declassato il debito pur garantito dal governo di 4 banche portoghesi: la Caixa Generale de Depósitos, il Banco Espírito Santo, il Banco Comercial Português e il Banco Internacional do Funchal, e assegnandogli un outlook negativo. Però insomma, la risposta della Banca Centrale Europea è stata molto netta e molto forte. Di questo parleremo anche nella seconda ora del programma. Ringrazio Beda Romano. Beda, sai che Moody's ha declassato anche la radio TV di Stato portoghese, come se declassasse la RAI. Su questo mi sembra che possiamo anche soprassedere e farcela. Grazie Beda Romano. Il traffico, poi la borsa e poi lo scontro che si sta delineando sempre più forte tra politica, Banca Centrale Europea e vari esponenti e queste agenzie di rating sovranazionali, espressione dei fondi comuni o i fondi di investimento americani. 349-238-6666 per i vostri sms. di nuovo in diretta. C'è chi chiede: ma come mai non si possono eliminare le agenzie di rating? Beh, aspettate un attimo, sono soggetti privati, non è che uno per legge elimina un soggetto privato. Il punto è un altro, il punto è, come poi ricorderemo, capire a sulla base di cosa si muovono, perché non sono soggetti, cioè esiste il Fondo Monetario, esiste l'OCSE, esiste la Banca Mondiale, quelli sono soggetti sovranazionali partecipati dai vari stati. Le agenzie di rating sono soggetti privati che hanno al loro interno, come tutti i soggetti privati, vari azionisti. Gli azionisti di Moody's e di Standard & Poor's sono, oltre a Warren Buffett per quello che riguarda Moody's, i fondi di investimento americani. Okay? Quindi non sono soggetti completamente estranei, non producono terzo settore o quant'altro. E il sospetto è che possano che possa esservi un conflitto di interessi tra quella che è la decisione dell'agenzia e quello che è il movimento speculativo sui mercati. Dopodiché l'altra accusa forte è che sono state sorde e cieche nei casi, non da noi Parmalat, ma nei casi soprattutto del pre-crollo, pre-crisi, pre-2008. Lehman Brothers aveva uno dei voti più alti prima di svanire nel nulla. Comunque adesso la borsa. Iniziamo adesso, poi continuiamo anche nella seconda ora. Le agenzie di rating fanno il loro mestiere, lasciatele in pace. Ma insomma, noi le lasciamo in pace, bisogna capire sulla base di quali indicazioni si muovono e chi controlla e come rispondono. Cioè, nella vita tu non puoi dare un giudizio, muovere i titoli e poi se ti sei sbagliata non paghi mai. Questo non mi sembra così corretto. Attenzione, c'è una notizia che riguarda Fondiere Assai, appena battuta, l'antitrust ha dato il via libera al patto parasociale ha esaminato le modifiche apportate da Unicredit e Premafin, che controlla Fondiaria, sul patto parasociale, le ha ritenute coerenti e quindi via libera. Adesso la borsa, dicevo, meno 0,24% Milano. Paolo Paronetto, Radio Colle sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Come mai ha girato in questo modo Milano? Perché fino alle 3,5-4 era positiva come il resto d'Europa, con le banche positive. Sì, le banche a Milano alla fine si sono mosse in ordine sparso, quelle di medie dimensioni, possiamo dire così, sono riuscite a recuperare terreno dopo lo scivolone generalizzato di ieri, mentre i due big, Unicredit e Intesa San Paolo, hanno continuato a perdere terreno. C'è da dire che i listini europei, comunque Milano è stata abbastanza volatile in tutta la giornata. Nel pomeriggio le borse europee hanno risentito positivamente, le altre borse europee l'andamento di Wall Street e di alcuni dati macroeconomici positivi provenienti dagli Stati Uniti sul mercato del lavoro, mentre appunto in Milano rimane un po' peggio rispetto alle altre. Unicredit ha fatto meno 4%, Intesa meno 2,6%, titoli che pesano molto, anche Fiat è stata negativa e quindi in questo senso è stata penalizzata. C'è comunque sempre l'effetto periferia dell'Eurozona, perché anche Madrid meno 0,08%, mentre Lisbona, che ovviamente è quella che viene guardata più vicino dopo il forte calo di ieri, oggi ha recuperato l'1,8%. Sì, ricordiamo che oggi è aumentata la differenza tra quanto rende un'obbligazione tedesca e quanto rende l'equivalente obbligazione italiana, nuovo record nello spread, poi è ritracciato, però il record lo ha toccato a 224 punti, ossia il 2,24%. Ancora, poi continuiamo dopo il GR, come dicevo. Fondiari Assai, l'annuncio è arrivato ai mercati chiusi, ma il titolo ancora oggi ha preso una sberla. Sì, del resto l'annuncio era abbastanza atteso, il delibera dell'antitrust. Tra l'altro adesso Fondiari Assai dovrà integrare il prospetto sull'aumento di capitale, includendo, secondo le attese, alcune delle clausole imposte dall'antitrust, come la vendita della quota detenuta in generale. Fondiari Assai continua a perdere terreno, domani si chiude il periodo per la negoziazione in borsa dei diritti sull'aumento di capitale e oggi per la prima volta nelle ultime sedute il valore del titolo Fondiari Assai è sceso al di sotto del prezzo implicito implicato appunto dai diritti sull'aumento di capitale e quindi si è allineato, c'era un gap molto elevato in favore dei diritti che erano più economici, mentre oggi per la prima volta il titolo è sceso al di sotto di questo valore. Gli altri titoli, Atlantia, Telecom, Fiat e anche alcuni titoli molto positivi come Tenaris più 3,50%, Enel Green Power più 3,20%. Saipem più 2%, dicevo, questi altri titoli dopo il GR. Un ascoltatore dice: avete detto un'inesattezza, la Banca Centrale Europea accettò già a favore dell'Irlanda e della Grecia i collateral. Attenzione, il riferimento era al fatto che mai prima d'ora, a nostra memoria, mia e di Beda Romano, un presidente della Banca Centrale Europea fosse intervenuto in maniera così netta, dando un messaggio così forte contro le agenzie di rating. Comunque ne riparliamo dopo GR. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere l'approfondimento di borsa e poi passare al tema delle agenzie che danno i voti e dopo la posizione di oggi della Banca Centrale Europea. Paolo Paronetto, al di là dei bancari, e tu hai ben spiegato come si sono mossi oggi abbastanza bene i piccoli, le piccole e medie banche, molto più penalizzate le grandi, a partire da Unicredit meno 4,23%, e anche Intesa meno 2,60%, poi Banco Popolare meno 1,20% e Monte dei Paschi meno 0,60%. Effetti delle modifiche intervenute alla finanziaria su Enel Green Power, ma anche su Atlantia, in quel caso più promesse che modifiche, prego. Esattamente, in particolare partirei da Atlantia, che è stato in positivo per gran parte della seduta ed ha invertito la rotta dopo l'avvio in rosso, quando il vice ministro alle infrastrutture Roberto Castelli ha annunciato l'intenzione di presentare un emendamento alla manovra economica proprio per eliminare quel tetto agli ammortamenti e alla deducibilità degli ammortamenti sulle concessioni, che sarebbe tradotto di fatto in un aggravio fiscale per le concessionarie come Atlantia. Il titolo da quel momento è girato in positivo e ha chiuso con un avviato dello 0,67%. Per quanto riguarda Enel Green Power, quello del titolo è un recupero dopo la debolezza delle ultime sedute, quando aveva risentito dell'ipotesi che nella manovra entrassero dei tagli agli incentivi per le energie rinnovabili, ipotesi che al momento è caduta, anche se non è detto che in Parlamento qualche partito possa provare a reintrodurre la misura. Oggi il titolo ne ha approfittato e ha guadagnato il 3,21%. Sì, di Atlantia abbiamo parlato ampiamente ieri con il numero uno della società Autostrade, Castellucci. Appunto, la norma prevedeva che potesse essere dedotto l'1% all'anno massimo degli ammortamenti, norma molto penalizzante appunto per i costruttori e quindi che non gli permetterebbe di recuperare gli investimenti fatti. Ancora su Impregilo c'è una novità forse sulla Milano-Genova. Sì, esattamente. Oggi, secondo gli operatori, il titolo è stato premiato dalla prospettiva di un via libera in tempi rapidi all'alta velocità Milano-Genova. Dovrebbe essere imminente la firma tra il consorzio, che è guidato appunto da Impregilo, e il committente, anche perché la manovra economica sblocca, tra gli altri, gli investimenti dedicati proprio a questo progetto. Impregilo è capofila di questo consorzio per la realizzazione di questa opera e quindi oggi il titolo ne ha approfittato guadagnando l'1,65%. Ancora i migliori e peggiori della seduta: Zucchi più 9,50, Italmobiliare più 5,10, AF più 4,60, Autostrada Torino Milano più 4,50, RDB più 4%, Societe Generale più 3,86. I peggiori: Bastoggi meno 8,30, Milano Assicurazioni, quindi Gruppo Ligresti, meno 7,21, Fondiera 6, già l'abbiamo detto, Banca Popolare di Spoleto, meno 5%. Ci chiede un ascoltatore, Paolo, se possiamo ribadire o ricordare il ragionamento e il motivo per cui le banche grandi oggi si sono mosse in maniera negativa, devo dire nell'ultima ora e mezza, mentre hanno tenuto le banche medie. Sì, a dire la verità poi le banche medie, quell'unica che ha tenuto davvero è la Banca Popolare di Milano, che ha chiuso a 1,43%, mentre anche il Monte dei Paschi, che è stato positivo per gran parte della giornata, alla fine ha chiuso a meno 0,65%. Le banche, come ricordavamo già ieri, sono state penalizzate e vengono sempre penalizzate ogni volta che si acuiscono le tensioni sul debito pubblico dell'Eurozona e dei paesi periferici dell'Eurozona, e questo è vero in particolare per banche come Unicredit e Intesa, che hanno un portafoglio di investimenti in attività finanziarie e in titoli di Stato anche di questi paesi sicuramente superiori rispetto alle banche di medie dimensioni come le popolari. Grazie, grazie a Paolo Paronetto, Radio Cori, Sole 24 Ore. Adesso torniamo sul doppio tema. Da un lato le tensioni sulle nostre obbligazioni, ripeto, la differenza tra quanto rende un BTP italiano e quanto rende l'equivalente tedesco è aumentata, perché sono aumentati i rendimenti delle nostre obbligazioni e non è una bella notizia, ci tocca pagare di più per trovare i finanziatori del nostro debito. Nuovo record a 225 punti, poi ha leggermente ritracciato. E poi invece le agenzie di rating. Moody's oggi ha declassato 4 banche portoghesi, però vi è stata una risposta molto netta, come abbiamo appena sentito, da parte della Banca Centrale Europea. Allora, riprendiamo un po' le file del nostro viaggio dentro le agenzie di rating. Perché? Perché io voglio farvi ascoltare cosa ci hanno detto in questi giorni alcuni ospiti, poi vi introduco il nuovo ospite. Jean-Paul Fitoussi, fortemente critico, insegna, è consigliere di Sarkozy e anche del governo italiano, insegna all'Istituto di Studi Politici di Parigi. Giudizio sulle agenzie di rating. Le agenzie di rating, dopo avere rovinati i piccoli risparmiatori con la crisi finanziaria, adesso provano di rovinare i lavoratori, perché le agenzie di rating forzano i governi ad avere politiche fiscali più rigorose di quelle che si devono fare. Se le agenzie di rating erano responsabili, allora un po' di danno che hanno fatto devono pagarlo. Ma non è stato il caso fino ad oggi e continuano a fare danni più grossi. Allora non possiamo accettare questo. È la ragione della mia rabbia. Bisogna cambiare. Il problema è di modificare il quadro giuridico, non di sopprimere le agenzie di rating. Ma il problema è che quando un gruppo di 3 agenzie ha un potere così grande che ha la tutela di fatto sui stati, c'è qualcosa che non va. Quando si è visto che queste agenzie si sono sbagliate molto fortemente con la crisi finanziaria. Non è la responsabilità, direi, delle agenzie, non è la responsabilità dei stati, è la responsabilità del quadro giuridico, che adesso bisogna modificare le regole del gioco per le agenzie di rating. Non possiamo continuare così. Credo che bisogna semplicemente introdurre una responsabilità. Prendo un esempio ancora più semplice. Sì. Se le agenzie di rating dicono che questo titolo è un triplo A, ma che l'indomani il titolo vale zero, allora le agenzie di rating sono responsabili. Così loro fanno il loro mestiere in modo più analitico, più pensato, più riflessivo. Quindi una responsabilità giuridica delle agenzie di rating ha proposto Jean-Paul Fitoussi, ancora più drastico e con un'altra soluzione, perché secondo Giulio Sapelli, economista, era una soluzione troppo complicata quella proposta da Fitoussi. Sentiamo allora Sapelli. Quello a cui assistiamo oggi, no, è una cosa che, a cui assistiamo da quando le agenzie di rating hanno cambiato la loro natura. Sono diventate da agenzie indipendenti a agenzie controllate dai grandi gnomi e dalle associazioni invisibili e segrete del grande capitale finanziario, che esistono, sono, diciamo, quello che io chiamo la dittatura mondiale dei manager corruzionisti, che controlla anche le agenzie di rating. L'ONU ci inonda di provvedimenti per i rifugiati, eccetera, faccia qualcosa di utile una volta tanto, oltre a quelle già tante utili che fa spendendo un sacco di soldi, però faccia una cosa che non costa niente e emani una direttiva attraverso l'UNCTAD, la sua organizzazione che si occupa di relazioni economiche con l'OCSE, per cui queste istituzioni che non servono a nulla se non a favorire la speculazione. Chi deve dare però i giudizi ai governi? Perché insomma da qualche parte nessuno. Ma come nessuno? La Grecia ce la si è beccata. Ma nessuno, scusi, abbia pazienza, Risoni, abbia pazienza, ma i greci per 10 anni hanno falsificato i conti all'Europa. Lei può sostenere che c'era qualcuno che non è che non se n'era accorto? Beh, a noi i greci ci hanno raccontato che tutti lo sapevano in Grecia. Ma pensa, ma no, ma tutti lo sapevano a Bruxelles, abbia pazienza. Ma chi deve giudicare i governi? Gli elettori devono essere i giudici dei governi. Ma da quando è mondo che c'è qualche atti? Ma chi ha dato questo potere a queste persone di giudicare i governi dal punto di vista economico? È un nuovo panopticum, è il trionfo dell'illuminismo economicistico. Ma chi sono questi qui? Dio? Allora, mi sembrano due giudizi che ci portano al terzo intervento in questo ciclo di interventi. Ringrazio per averci raggiunto in studio Alessandro Praterotti, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Alessandro. Buonasera Sebastiano, buonasera agli ascoltatori. Un minuto di pazienza, c'è il traffico. Allora, abbiamo sentito Jean-Paul Fitoussi, un estratto del suo intervento, Giulio Sapelli. Oggi, Alessandro, la Banca Centrale Europea, come abbiamo fatto ascoltare per voce di Jean-Claude Trichet, ha detto noi comunque utilizzeremo i titoli delle banche portoghesi come assicurazione, anche se sono fuori dal voto che di solito utilizziamo, che è un messaggio molto netto all'agenzia di rating. Voi fate quello che volete, ma noi ci muoviamo per il nostro canale. Non vorrei, fammi difendere l'agenzia di rating così faccio il mio lavoro di avvocato del diavolo, non vorrei che insomma si buttasse via il bambino con l'acqua sporca. È vero che hanno compiuto numerosi errori, ma è anche vero che i debiti dei vari paesi, a mio avviso, vanno anche giudicati. Alessandro. I debiti dei paesi vanno giudicati, va giudicata l'affidabilità di un paese da soggetti terzi e per riprendere quello che diceva il professor Giulio Sapelli, se la Grecia ci ha imbrogliato è proprio perché non c'era bisogno di far firmare, controfirmare un bilancio dello Stato a una società di rating. Allora io non voglio difendere le società di rating perché si difendono bene da sole, non è il mio compito difendere nessuno. Quello che voglio dire è questo: c'è un ritardo gravissimo europeo nella definizione della valutazione dell'affidabilità di credito. Bisogna ogni tanto ricordarsi che la finanza è nata in America, il mercato finanziario che conosciamo è anglosassone ed è modellato a sua forma e fisionomia, cioè le società di rating riflettono le public companies, riflettono sistemi a capitalismo avanzato dove ci sono azionisti diffusi, dove fra l'altro l'architrave stessa del mercato finanziario si regge sulle società di rating. Vi faccio un esempio molto semplice: ci sono i grandi fondi pensione americani che sono quelli che muovono trilioni di dollari, ovvero migliaia di miliardi di dollari di investimenti in giro per il mondo. Ebbene, per scelta propria, cioè scelta di governance, ovvero degli azionisti, questi fondi non possono investire in prodotti finanziari o strumenti finanziari che sono al di sotto del cosiddetto investment grade, ovvero hanno un voto dell'agenzia di rating che è al di sotto della sufficienza. Allora, gliel'ha obbligato qualcuno? No, l'hanno fatto di propria scelta. Perché? Perché in qualche modo l'investitore deve avere un filtro. Il vero problema, semmai, non è quello di eliminare chi ti dà i voti, perché allora tanto vale far fuori le... Era come un po' il dibattito in Italia sulle pagelle. È giusto dare i voti agli studenti? Beh, servono i voti perché sono la misura di quanto uno studente ha studiato ed è affidabile. Il problema è garantire la trasparenza e la responsabilità di chi dà i voti. Se un professore dà un'insufficienza a uno studente che pure è bravo, questo, o viene bocciato agli esami, lo studente ha possibilità di fare ricorso in tribunale. È successo che si sono stati gli esami. Allora, lo stesso deve valere per le società di rating, ma anche al contrario. Se una società di rating fa un rating, dà un rating in mala fede, perché deve essere provata la mala fede, altrimenti cioè, c'è la colpa, non il dolo. In questo senso, se c'è una mala fede, deve essere responsabile. A questo proposito, vorrei ricordare sia a Fitoussi, che evidentemente se l'è dimenticato, anche a Sapelli, che è molto attento invece su queste cose, che l'Unione Europea ha già un documento di consultazione e la consultazione si era esaurita a fine gennaio, ma ne avevamo persa traccia. Quindi vuol dire che l'Europa che ha perso tempo sui rating, un documento di consultazione, doveva arrivare una nuova normativa sulle società di rating che si reggeva su tre cardini: responsabilità civile della società di rating sui rating errati, una società di rating europea da favorirne la costituzione da parte dell'Europa, l'abolizione, poi fra l'altro, il terzo punto, abbiamo detto, i rating sovrani, ovvero non si può, finora c'è adesso le società sono di rating, sono obbligate a comunicare ai governi i vari eventuali declassamenti o l'osservazione del debito con 12 ore d'anticipo. La normativa europea vorrebbe portare dai 12 ore ai 3 giorni. Lo spirito è questo: se lo diciamo 3 giorni prima, un governo ha tutta la possibilità di tempo per prepararsi e per dare una risposta interessante. Però attenzione, 3 giorni aprono spazio alle fughe di notizie e questo si chiama insider trading. Allora, hai fatto bene a ricordare, visto che in questo programma ospitiamo qualunque opinione, come sapete da anni, quello che ha anche il valore, non solo per i fondi pensione, che poi significano i risparmi dei pensionati, ragioniamo in maniera ancora più semplice su questo, ma il fatto che in Europa, molti ascoltatori ce l'hanno chiesto in questi giorni, c'era un disegno di legge, chiamiamolo così, per arrivare a una ridefinizione sia come responsabilità civile, sia come società di rating, agenzia europea, e molti ce lo chiedono al 349-238-6666, sia come tempistica della comunicazione ai governi, in modo che i governi non si trovino in mutande, diciamo, all'improvviso, però con l'aspetto controproducente che più tempo ci metti a comunicarlo, più prima glielo dici e peggio è. Nel senso sul che fronte è speculativo. Fuga di notizie. Esatto. C'è un altro aspetto però. Oggi la Banca Centrale Europea è stata molto netta su questo. Ha detto: noi andiamo avanti a usare i titoli bancari portoghesi anche se li avete declassati. Adesso traduco in maniera... è sembrato un proseguo del braccio di ferro tra autorità centrali europee e agenzie internazionali. No, non lo è. Questo è bene che gli ascoltatori ce l'abbiano ben presente. È falso presentarlo come un braccio di ferro solo per un motivo. Perché la Banca Centrale Europea, nel momento stesso in cui uno Stato, il rating di uno Stato va al di sotto del investment grade, del non viene più acquistato dagli investitori istituzionali di quasi tutto il mondo, perché sono costretti a prendere quelli con i voti oltre dalla sufficienza in su. Allora, se la BCE non avesse accettato come collaterale i titoli di Stato del Portogallo, nessuno li avrebbe più comprati, né la BCE né gli investitori istituzionali. Questo è un intervento di emergenza, è un cordone sanitario, è una boccata di ossigeno che serve a tenere in vita il debito portoghese, altrimenti non avrebbe avuto più mercato. Ecco, ricordo che i collaterali sono quelle forme di garanzia che vengono date da un soggetto privato, in questo caso dalle banche, a dire: io sono esposto così, ti do a garanzia qualcosa, in questo caso titoli della banca, che però erano sotto livello di investimento. Esatto. Ultima domanda, mi ricollego al tuo fondo di oggi sul Sole 24 Ore: all'estero c'è chi ci vuole male. Tu, un articolo molto più lungo, ricordi comunque come le banche italiane, e lo abbiamo visto anche oggi in borsa, hanno girato nell'ultima ora e mezza, vengano comunque sempre penalizzate dalle vicende mediterranee, Grecia, o non solo, c'è anche l'Irlanda, Grecia, Irlanda, Portogallo, pur essendo quelle oggettivamente, rispetto alle tedesche e alle francesi sulla Grecia, rispetto alle inglesi sull'Irlanda, meno esposte nei confronti di questi paesi. Sì, perché la discriminante, le banche italiane stanno pagando dei problemi loro strutturali che ben conoscevamo, per questo non si giustifica molto l'azione dell'agenzia di rating, perché non è che la situazione è peggiorata, anzi, semmai sotto certi punti di vista è migliorata. E quando dico strutturali mi riferisco a quanto guadagnano. Le banche italiane guadagnano la metà della media europea, perché non hanno investimenti tanto rischiosi da guadagnare. Ricordiamo sempre: più è alto il rischio, più alto il guadagno. In Italia si rischia meno, si guadagna meno, però hanno anche dei costi molto elevati. Il personale oggi è ancora, come media di costo, più alto di quello europeo, quindi devono ridurre le spese per poter alzare i costi, per alzare la redditività. Ci sono livelli di sofferenze molto elevati, l'industria italiana, non è un segreto, è in difficoltà. Da noi la crisi è cominciata prima degli altri e sta durando più degli altri. Non solo, questo va a merito delle banche, c'è stato un leve indebolimento dei bilanci delle banche legato anche alle moratorie che hanno accettato di fare, tanto sui mutui delle famiglie che sulle imprese, quanto su quello delle imprese. E ora bisogna ricordarcelo ogni tanto anche questo aspetto qua, perché effettivamente esiste. Però che cosa colpisce, perché le banche sono più colpite degli altri? Perché in questo momento manca un sistema paese in grado da dare garanzia agli investitori internazionali sulla validità, la tenuta e l'efficacia dei piani di risanamento. Questa manovra è del tutto insufficiente, l'abbiamo scritto, l'abbiamo detto in Italia, era inevitabile che anche i mercati facessero leva su questa debolezza nei risanamenti della finanza pubblica, soprattutto sulla mancata crescita e il livello di debito, per dare colpi alle banche e speculare. Oggi i titoli delle banche erano rimbalzati in borsa, certo. Questa è speculazione. Pure. Ieri perdo il 5%, oggi mi ricopro, non mi meraviglierei se domani ricominciamo da capo. È la fragilità del sistema che permette agli speculatori di agire sui titoli bancari che sono i più esposti tanto alla crisi economica quanto agli altri fattori dell'economia. In una battuta, visto che era l'ultimo rialzo dei tassi di Trichet, arriverà Mario Draghi, conosce molto bene le banche italiane, servirà alla luce di quello che hai appena detto, sì o no? Ma Mario Draghi servirà perché, se non altro, conosce bene anche la realtà dei paesi più deboli dell'Unione Europea, e noi siamo uno di quelli. In Goldman Sachs ha lavorato molto anche su queste, sugli stati, ha lavorato molto. Possiamo dire che, se non altro, c'è qualcuno che ci conosce bene e sa anche quali sono le nostre fragilità. Speriamo che questo possa servire. Grazie Alessandro Platerotti, vice direttore del Sole 24 Ore. Da Sebastiano Barisoni veramente tutto. Continuerà domani con Daniel Grossi il nostro viaggio dentro le valutazioni di vari esperti sulle agenzie di rating e sulle banche italiane e sui sistemi paese. Per adesso, buona serata. Radio 24. La passione si sente.